Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ma cos'è rapinare una banca in confronto a fondare una banca come crimine? Diceva, non sono parole mie, ma come ben sapete sono parole di Bertolt Brecht, e trovano conferma anche nel messaggio che è arrivato dal tranviere bolognese Willy. Nei paesi anglosassoni i banchieri sono definiti bankster, cioè banchieri e gangster, termine azzeccato come darti torto. Grazie e buona giornata. Di rientro quindi dopo il GR di Radio Popolare troviamo un last minute che ci porta nel cuore della nostra città per conoscere nuove iniziative che avranno sede in Galleria Falcone e Borsellino. Tra le organizzatrici e gli organizzatori Silvia Suppini, che è qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno, benvenuta Silvia. Buongiorno, ciao William, buongiorno a tutte e tutti. Grazie per questa sveglia un po' anticipata, ma merita assolutamente il progetto Margolab APS in Galleria Falcone Borsellino, nuova sede. Allora, io tra le iniziative, laboratori artistici, scrittura crime curata da Gian Piero Rigosi, di sceneggiatura con Marco Pettenello, teatro Tita Ruggeri, fotografia Francesco Guidicini, videomaking indirizzato ai giovani, ma anche, attenzione, sfoglina e corsi di dialetto bolognese, e quest'ultima ha definitivamente dato il via al mio entusiasmo per contattarti e per saperne di più. Silvia, quindi di cosa si tratta? Possiamo approfondire un po' tutto ciò? Sì, esatto. Allora, guarda, noi nasciamo come associazione che si è occupata di cinema. Siamo usciti l'anno scorso con un lungometraggio, Enea Miranda, siamo stati al Galliera, all'Orione, e diciamo che in parallelo abbiamo portato avanti anche dei corsi nelle scuole di videomaking, ed è nato un po' tutto lì, il nostro amore anche proprio per condivisione, diciamo, anche con i giovani della settima arte. Però c'era nell'aria questa idea appunto di aprire uno spazio artistico-culturale, abbiamo trovato il posto, e però insomma noi porteremo avanti tutta la parte che riguarda il cinema, ma con l'appoggio appunto di grandi professionisti in ogni ambito, fra cui sì, il mio, questa è una cosa a cui tengo molto, una valorizzazione anche del nostro patrimonio culturale, e quindi anche sfioglina e dialetto bolognese. Sì, avete messo insieme tante realtà molto belle artisticamente e culturalmente, alcune un pochettino, diciamo così, lasciate in maniera folcloristica, ma che confermo per me hanno una grandissima importanza. Quindi per contattarvi e per avere la possibilità di partecipare a queste iniziative, come possiamo fare? Allora, guarda, innanzitutto il sito, che è www.margotlab.it, e lì trovate tutti i corsi con orari, giorni, data d'inizio e anche modalità di iscrizione. E poi abbiamo la mail, che è info@margotlab.it, certo. E poi sui social ci, certo, trovate sempre Margolab. E almeno la rete in questo caso dà un'informazione per la nostra città che può essere quanto mai utile. Personaggi importanti, come chiamiamoli docenti, come Tita, sì, Ruggeri per il teatro. Beh, è un bel dream team per arte, cinema, teatro, anche letteratura, se vogliamo. Come questa iniziativa ha una nuova sede, ma come è nato tutto ciò, Silvia? Ma come ti dicevo, noi prima ci siamo dedicati al cinema, che è la nostra grande passione, con anche insomma buoni risultati l'anno scorso appunto col lungometraggio, come ti dicevo, a noi è scattato veramente un amore per, chiamiamolo, l'insegnamento, anche se in realtà io la preferisco parlare di condivisione. Con i giovani soprattutto, con questi campi estivi nelle scuole di videomaking, e mi sono detta, perché farlo soltanto in estate e non cercare un posto dove portare avanti anche tutto l'anno la possibilità appunto di lavorare con i giovani, di far conoscere tutto ciò che sta dietro anche alla camera, quindi tutti i segreti del cinema, diciamo così, quando mettergli in mano un boom piuttosto che una macchina fotografica per fare le riprese, E scrivere anche sceneggiature, avremo anche un corso di sceneggiatura per ragazzi. Sì, ma precisiamo, magari adesso non vorrei prendermi delle libertà, però è aperto a tutte e a tutti. Sì, certo, giovani, però tutti gli altri corsi sono anche per adulti, naturalmente. Certo, intergenerazionale, come si dice adesso. Assolutamente, assolutamente. Il dialetto ci tengo molto, spero che anch'io. Molti giovani si iscrivano, perché veramente mio babbo lo parlava, io già molto meno, i miei figli quasi nulla, ed è un peccato, perché invece... è il nostro patrimonio, cioè, e va riscoperto e va mantenuto vivo, a sì, mio parere. Beh, condivido pienamente, ogni tanto quando un pochettino la mosca al naso, qualche espressione tipicamente petroniana, e capisco che deve essere mantenuto, valorizzato, diffuso, non come contenuto divisivo, ma assolutamente per farci conoscere e quindi diffondere e unire, valorizzare nelle nostre differenze le capacità di comunicazione che partono dalle radici. Questo indubbiamente è un motivo in più per conoscere tutte queste caratteristiche, e quindi Silvia, io ti ringrazio tantissimo. Un'ultima precisazione: i corsi hanno un inizio? Sì, iniziamo subito dopo Pasqua, quindi dall'11 aprile in poi. Ci sono corsi continuativi, ma anche workshop come quello di fumetto con Matteo Lolli, fumettista della Marvel. Quindi anche durano magari solo qualche weekend, insomma tante possibilità per chi ha più tempo e per chi invece vuole farci una visita veloce ma intensa, diciamo. Com'è questa nuova sede? Perché a Cipicchia, che sede, in che zona prestigiosa, Galleria Falcone, sì, Borsellino, proprio nel cuore della nostra città, ci puoi dire qualcosa, sì, di più? Sì, guarda, abbiamo preso questo spazio con vetrine, e quindi insomma cercheremo di fare cultura anche un po' davanti, no? Alle persone che passeranno. Certo. Esatto, esatto, perché non c'è niente da nascondere, insomma. Anzi, facciamo cose belle, vero? Anzi, e quindi sì, poi insomma cercavamo un posto appunto per stare in centro, ma nel senso, nel cuore, in tutti i sensi, nel cuore della nostra città, ci teniamo molto. E dalle iniziative che state proponendo siete anche nel cuore del Breakfast Club e indubbiamente della nostra città, e non solo. Allora Silvia, abbiamo citato, permettimi il termine, alcuni dimostratori o docenti collaboratori, sì? Invece oltre a te c'è da citare per Marcot Lab qualche altra figura, insomma, nell'organizzazione e nell'iniziativa? Ma dici di altri che stiamo organizzando? Certo, tra gli organizzatori abbiamo citato per dimostratori e docenti Tita Ruggeri, Francesco Guidicini, Marco, esatto, Pettenello, sì, anche Giampiero Rigosi per la scrittura, tra l'altro, mentre invece nell'organizzazione ci sei tu e... Ci sono io, c'è mio marito Eugenio Valentinuzzi, che sempre fa parte del team con cui abbiamo realizzato il lungometraggio, e poi sì, tante figure, c'è Niccolò Razzi, che è il nostro fonico, Barbara Gamberini, che si è occupata della produzione. Insomma, sì, tante persone. Non penso che tu da sola riesca, per quanto decisamente carica di iniziativa ed entusiasmo, però per proporre tutto ciò è un'equipe, è l'equipe di Margot Lab, la sede, esatto, Falcone Borsellino nel cuore di Bologna. Iniziano i corsi dopo Pasqua, potete scrivere a www.margotlab.it per avere informazioni sulle realtà che abbiamo appena citato. Io ti ringrazio. Iscrizioni già aperte, inizio corsi dopo Pasqua. Ti ringrazio. E ti grazie di cuore. Ciao. Grazie, ciao, William. Silvia. Ciao. Buona giornata. Ciao. Anche a te, grazie mille. lips, could this be it? Could this be it? Lover, cover, marble skin, just wrap me in, just wrap me in. Silvia Suppini dell'organizzazione Margot Lab, protagonista nel nostro Last Minute di oggi giovedì 16 marzo, ma soprattutto giovedì, giornata dedicata all'arte. Quindi concludiamo un tris d'assi sempre e comunque presenti nella nostra rubrica Regola d'Arte. Abbiamo iniziato con Palazzo dei Diamanti, il Rinascimento a Ferrara, Ercole De Roberti, Lorenzo Costa, poi siamo passati dal Po, siamo a Rovigo, a Palazzo Roverella Renoir, e ora la Villa dei Capolavori. Direttore Stefano Roffi, co-curatore dell'esposizione, protagonista Felice Casorati. Tra pochissimo l'approfondimento è dedicato a Magnani Rocca per i 103.1. In esclusiva la conferenza ufficialmente sarà domani, noi abbiamo avuto un'anticipazione dei contenuti e quindi avremo possibilità di approfondimento. Un po' di musica con gli Static, torniamo in diretta tra poco, il brano è Headphones per City Center Office e andremo in mostra, a tra poco. We'll be right back.